Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a un'altra puntata in Accambiale per te. Ci ha contattato la signora Livira in settimana PV di Sirriciano, cioè un marito che aiuta a Cosenza a venire a Roccoli e non è più tornato a casa. Sarà scappato di casa? Sarà cervazza di un'altra donna? Noi di C'è una cambiale per te cerchiamo di trovare il signor Cicini Quattarotto. Ora facciamo entrare la signora Livira. Buonasera, e come signor contenta che finalmente vi posso conoscere, signora Marie. Ma più piacere, vediamo se potremo trovare chi rola sto fan di maritima. Possibile che io ti accusenza e non sei chi ricuoto? Una cazzo di cascetti di broccoli ci avete 25 minuti, insomma, no? Signora Livira, non ti preoccupare, che a noi non fui niente. Lo troviamo. Basta calibrare il ruolo di Ottaviano. Chi ritrova pure i pollici. La gente paga per venire giù, così no, quelli cazzi che si presentano al programma. Ottaviano, sei riuscito a trovare il signor Cicini di Quadarotto? Mare, pure a che sei riuscito a trovare? Le due zuttopone della riga a Cosenza assieme a Padre Fedele. Tutto l'ordine e zozzo e puzzolente come un canemboso. Prima devo passare sopra la palla e ho avuto purtroppo la maggio. Almeno a sto giro non hanno dovuto pagare il signor Gigino. Cazzo che te frega. Ah, io no, ma tu frega che hai voluto pagare a Padre Fedele? 70 euro, ti rendi conto? Perché dice che Gigino è una pecora smarrita, è la sua proprietà. E quindi mi hai voluto accattare pure a Gigino Mondone. Ma che a me che cazzo mi vuoi tutti i soldi? Oi? E pensa la sala, tutta a traviare il lavoro a nobiltà uomo. Sì, come dici tu. Io veramente faccio tanti che risolvere se mafo a bene fazzolette. Cadu che ha pensato io, questa tircia che non si altro. Ma che ne mi ha fatto? Ma mi è venuto pure l'opposta, non sei semaforo. Finisci la moglie, piangi, e mo, dicimi, se Cicini qua da rotto ha accettato l'invito. Dopo averlo lavato per bene con naffetta e lana d'acciaio, il signor Cicini ha accettato l'invito e è venuto su trasmissione di un cazzo. Io volessi sapere che ne cazzo, ma mi va trovando a me, mi avete fatto venire giù a perdere tempo. Io avete detto che Padre Fedele, la femmina, te hanno giri i monaci, che ne ricreiamo ogni volta, comunque vediamo che ne mi mandate a chiamare, eh. Signora Livira, è questo suo marito? Fammici pensare un attimo, fammi guardare, è troppo pulito per essere marito, ma chi so. Infatti, mi sa con ne dico, a chi sono che conosce proprio, ma chi ne cazzo è? Ottavia, ma sei sicuro che sei Gigino in Quadarotto? Ma che sei Gigino? Ma quando hai trovato in Quadarotto non è che ce n'erano. Ma neanche la miseria zozza e l'ordine. Vuoi vedere che hai sbagliato più con la smarrita? Ma neanche l'ordine di Padre Fedele, ma... Ma ha detto che ha pure vaccinato sto l'ordine. Non disperate, ti viene, non è successo nulla. La prossima volta lo trovo, via. Un raggia. Tanto un lo licenziamo, che devo trovare un giunci come a te. Ma va fangulo, va! A me so quando mi ne frega che Gigino è disacciuta dalla moglie a me! Io piangi 70 euro che si è fregato che vuol dire Padre Fedele, chi si può pigliare dentro il gemmino per la cacaredda, piezzi piezzi! Ma bene, bene, siamo giunti alla... Ottavia, finiamo per cortesia! Bene, siamo giunti dunque alla fine di questa puntata e speriamo che la prossima volta Ottaviano prima spegni i soldi per gente con un servono, almeno pigli un numero di targa. Alla prossima puntata di C'è una cambiale per te. Ottavia, finisci l'anguacchia, chi ti cazzo, te vecchio. Ma fa un po' tonaccia, va.